Job 24. La follia della donna, quel bisogno di scarpe che non vuole sentire ragioni. Cosa sono i milioni quando in cambio ti danno le scarpe? Avete già capito in che settore ci muoviamo oggi per trovare lavoro? In quello delle calzature. Bentrovati a Gio 24, Elio, le storie tese hanno ragione. Crisi o no, le scarpe continuano a rappresentare l'oggetto del desiderio per molte donne. Ma perché questo accessorio esercita così tanto fascino? L'ho chiesto ad un esperto in materia, Vito Artioli, presidente dell'ANCI, l'Associazione Nazionale Calzaturieri Italiani. Perché una donna può vestirsi anche con un abito modesto, ma se ha un bellissimo paio di scarpe appare elegantissima. L'accessorio calzature dà quel tocco di eleganza che gli altri indumenti non danno. Le donne ne sono stregate? E ne sono stregate, soprattutto le donne ne sono stregate, ma anche l'uomo sempre di più. Quindi, immaginando che questo fascino diciamo non andrà in declino, lei mi conferma che i giovani che pensano a diplomarsi nei corsi avranno spazio poi nelle nostre industrie. Anche questo settore però, è inutile nasconderlo, ha risentito e sta risentendo della crisi. Dunque, la crisi ha avuto prevedibili ripercussioni sui livelli occupazionali e sulla mortalità delle aziende. I dati riferiti a settembre indicano che il numero dei calzaturifici attivi sul territorio si è ridotto del 3,3% rispetto a dicembre del 2008, scendendo con la chiusura di 207 aziende a 6.056. Quindi abbiamo perso parecchie imprese per strada, che è sicuramente meno incidente sui posti di lavoro e sulla caduta di imprese di altri settori, nel settore dell'abbigliamento per esempio, in altri settori fortemente esportativi come il nostro. Quindi rispetto ad altri settori, quello della calzatura tiene di più almeno di altri. Diciamo che non possiamo cantare vittoria, perché finché questa crisi non sarà passata noi non potremo invertire l'andamento del trend, che per ora rimane negativo. Ecco. Senta, gettiamo il cuore oltre l'ostacolo e guardiamo al futuro e a questa ripresa che non sarà velocissima come ci diceva, ma che tutti ci auguriamo ci sarà in tutti i settori, compreso quello della calzatura. Forse la ripresa dipende anche da risorse umane giuste. Ci sono delle figure professionali di cui questo settore ha bisogno in questo momento? Certamente abbiamo bisogno, vista la ricerca continua delle nostre imprese, sia quelle grandi, sia quelle medie, sia quelle piccole. Noi siamo in costante lavoro di innovazione e quindi di ricerca tecnologica, di informatica nella formazione del modello preparato per la prototipazione e l'industrializzazione fatto con l'informatica. Ha bisogno di giovani preparati professionalmente, adeguati ai passi da gigante che sta facendo la tecnica. E infine è importante per noi conoscere immediatamente cosa comprano per primo, cioè il tipo di forma, il tipo di modelleria, eccetera. Questo per informare in tempi reali il produttore, che può adeguarsi alla moda che lei sa che passa con la velocità del lampo. Quindi spazio ai tecnici di prodotto, ai tecnici di processo e ai tecnici commerciali. Esatto, tutta la filiera della nostra produzione. E ne abbiamo, di questi corsi ne abbiamo in tutta Italia, corsi di formazione professionale. Abbiamo gli IPSIA a Casarano, Montegranaro, Coridonia, Pescia, a Lecce, a Padova, a Parletta, Montebelluna. Agli IPSIA si sono aggiunti gli istituti tecnici commerciali, sia a Civitanova Marche che a Trani. Poi abbiamo gli ultradecennali corsi di formazione attivati dalle agenzie formative post diploma e per l'aggiornamento di risorse per la formazione continua presso il Veneto, Politecnico Calzaturiero, il master internazionale attivato quest'anno in collaborazione con l'ANCI ha per titolo il designer del sistema moda calzatura, quindi vede quanto è importante il design nella nostra calzatura, che punta alla competitività nell'altissima qualità. Quindi lei conferma che c'è bisogno anche di creativi? Abbiamo bisogno moltissimo di creativi, sempre di più, perché è lì che noi siamo forti. Quel qualcosa che gli altri non hanno e che forse non avranno mai, anche se cercano di seguirci, di copiarci sulla nostra strada, è proprio la creatività. Noi siamo proprio competitivi nell'innovazione di prodotto, noi ci si copia, non riesce a starci dietro. Senti, Senta, in chiusura parliamo dei lustrascarpe. So che si stanno rivedendo in alcune delle nostre città. Sì, sì, molto bella. È una campagna che abbiamo ideato per far conoscere meglio la calzatura italiana agli italiani. Quindi nelle nostre città, come diceva lei, Torino, Roma, Milano, eccetera, abbiamo messo per alcuni giorni di fine settimana che precedono queste festività delle poltrone con dei lustrascarpe che rinverdiscono la moda del farsi lucidare le scarpe. Le scarpe, quando sono belle, vanno intrattenute con il lucido che le ammorbidisca per preservarle dall'invecchiamento, dall'umidità, dalla pioggia, e quindi è importante intrattenere le calzature, e questo intrattenimento fa sì che le scarpe durino più a lungo, soprattutto le nostre scarpe, scarpe preziose. Quando lei ha qualcosa di prezioso ci tiene a mantenerlo bello. Si parla di queste iniziative, naturalmente di molto altro, nel sito dell'Associazione Nazionale Calzaturieri Italiani, di cui Vito Artioli, che abbiamo appena sentito, è presidente. Il sito è www.ancionline.com. Siamo fuori tempo massimo, grazie per l'ascolto da Roberta Pellegatta con Gio24, ci risentiamo domani.